Voltò in Cumberland Street e, avanzando di qualche passo, si fermò al muro della stazione sottovento. Nessuno. La segheria Mead. Travi accatastate, rovine caseggiati. Con passo cauto attraversò un gioco di campana con la sua piastrella dimenticata. Neanche un peccatore. Vicino alla segheria un bambino accoccolato giocava a palline. Solo. Tirava il pallino a colpi di dito. Un saggio soriano, sfinge occhieggiante, montava la guardia sul suo davanzale al caldo. Peccato disturbarli. Maometto, per non svegliarla, si tagliò un pezzo del mantello. Aprila. Una volta giocavo a palline quando andavo a scuola, da quella vecchia. Le piaceva la Reseda, la scuola della signora Ellis. E il signor? Aprì la lettera dentro il giornale. Un fiore. Mi pare che sia un fiore giallo coi petali appiattiti. Allora non è irritata. Che dice? Caro Harry, ho avuto la tua ultima lettera e grazie tante. Mi dispiace che la mia ultima non ti sia piaciuta. Perché ci hai messo dentro i francobolli? Sono arrabbiatissima con te. Vorrei poterti punire. Ti ho chiamato ragazzaccio perché quell'altro mondo non mi piace. Dimmi per piacere cosa vuol poi dire veramente quella parola. Non sei felice a casa tua, mio povero ragazzaccio? Se potessi far qualcosa per te. Dimmi per piacere cosa pensi di me, poverina. Penso spesso al bel nome che hai. Caro Harry, quante ci vediamo? Ti penso tanto spesso che non hai idea. Non mi sono mai sentita così attratta da un uomo come da te. Mi fa così male. Scrivimi per piacere una lunga lettera e dimmi ancora tante cose. Ricordati che se non m'accontenti ti punirò. Così ora sai quello che ti farò, ragazzaccio che non sei altro, se non mi scrivi. Che voglia matta ho di vederti. Caro Harry, non mi dir di no, altrimenti perdo la pazienza. Allora ti dirò tutto. E ora addio, brutto cattivo. Ho un tale mal di testa oggi. E scrivi a giro di posta alla tua ansiosa Marta. Post scriptum. Dimmi che profumo usa tua moglie, lo voglio sapere. XXXX. Staccò gravemente il fiore dallo spillo che lo teneva appuntato. Ne aspirò il quasi niente profumo e se lo mise nella tasca del cuore. Linguaggio dei fiori. Gli piace perché nessuno lo sente. Oppure un mazzolino avvelenato per levarselo di torno. Poi, procedendo lentamente, rilesse la lettera, borbottando una parola qua e là. Arrabbiata, tulipani, con te, caro uomo, fiore, punirò il tuo cactus. Se tu non accontenti la tua povera, non ti scordar di me, che voglia matta ho di violette, al caro rose, quando, presto, anemoni, ci vedremo, ragazzaccio. Bella donna, profumo di moglie, Marta. Finito di leggere tutto, levò la lettera di dentro al giornale e la rimise nella tasca esterna. Debole gioia gli schiuse le labbra, cambiata da quando scrisse la prima volta. Chissà se l'ha scritta da sé. Faceva l'offesa. Una ragazza di buona famiglia come me, una persona onorata. Possiamo trovarci una domenica dopo il rosario. Grazie, non fumo. Solite scaramucce amorose. Poi a rincorrersi dietro gli angoli. Peggio di una scenata con Molly. Il sigaro fa l'effetto di un calmante, narcotico. Spingiti un po' più avanti un'altra volta. Ragazzaccio, punire, paura delle parole, ovvio. Brutale, perché no? In ogni modo tentar non nuoce. Un passo alla volta. Tastando ancora la lettera nella tasca, ne tiro via lo spillo. Spillo comune, eh? Lo butto via. Se l'ha levato dai vestiti da qualche parte, tenuti insieme a forza di spilli. Curioso quanti spilli hanno addosso. Non c'è rosa senza spine. Piatte voci dublinesi gli berciavano in testa. Quelle due sgualdrine quella notte a Combe, allacciate sotto la pioggia. Mariuccio ha perduto lo spillo alle mutande. Non sapeva come fare per tenerlo su, per tenerlo su. Tenerlo? Tenerle? Un tale mal di testa? Ha le sue cose, probabilmente. Ho forse tutto il giorno a battere a macchina. La tensione degli occhi fa male ai nervi dello stomaco. Che profumo usa tua moglie? Come si spiega? Per tenerlo su. Marta, Maria. Ho visto quel quadro, vatte la pesca dove? Un maestro del buon tempo antico. O un falso. Siede in casa loro e parla. Misterioso. Anche le due sgualdrine di Cumba ascolterebbero. Per tenerlo su. Gradevole senso della sera. Basta con tutti questi giri. soltanto indugiare là, calmo crepuscolo, che tutto il resto corra pure. Dimenticare. Raccontare dei posti dove sei stato. Usanze strane. L'altra, con l'orcio in testa, portava la cena. Frutta, olive, splendida acqua fresca dal pozzo, ghiaccio come pietra come quel buco nel muro a Ashtown. Portarsi un bicchierino di carta la prossima volta che vado alle corse al trotto. Ascolta con occhi grandi, scuri, morbidi. Raccontale. Ancora e ancora. Tutto. Poi un sospiro. Silenzio. Riposo lungo, lungo, lungo. Passando sotto il ponte della ferrovia, tirò fuori la busta, la strappò alla svelta in tanti pezzettini e li gettò per la strada. I pezzettini volarono via, discesero nell'aria umida, un bianco fluttuare, poi tutti discesero. Henry Flower. Allo stesso modo potresti strappare un assegno di 100 sterline. Un semplice pezzetto di carta. Lord Ivig una volta riscosse un assegno di 7 cifre per 1 milione alla Banca d'Irlanda, il che dimostra quanti quattrini si cavano dalla birra. Eppure l'altro fratello, Lord Ardilaun, deve cambiarsi la camicia 4 volte al giorno, dicono. Pelle che genera pidocchi e altri parassiti. 1 milione di sterline. Aspetta un momento. 2 pence la pinta, 4 pence il quartino, 8 pence il gallone di birra. No, 1 scellino e 4 pence il gallone. 1 e 4 in 20, 15 circa. Sì, esattamente, 15 milioni di barili di birra. Che dico barili? Galloni. Comunque circa 1 milione di barili. Un treno in arrivo sferragliò pesantemente sulla sua testa, un vagone dopo l'altro. Barili gli rintronavano in testa. Birra greve sciabordava e zangolava dentro. Le spine si aprirono e un'immane corrente opaca prese a colarne fuori, fluendo unita, serpeggiando fra i banchi di fango per tutta la piana, pigro gorgo paludoso di liquido che trasportava i fiori ampio fogliati della sua schiuma. Aveva raggiunto la porta posteriore di Ogni Santi. Entrando nel portico si levò il cappello, si tolse il cartoncino di tasca e lo infilò dentro il marocchino interno del cappello. Al diavolo, avrei potuto cercare di farmi dare da McCoy una tessera gratuita per Mullingar. Stesso avviso sulla porta. Predica del reverendo John Conmee S.J. su San Pietro Claver S.J. e la missione africana. Preghiere per la conversione di Gladstone fecero pure quando aveva quasi perso conoscenza. I protestanti lo stesso. Convertito il dottor William J. Walsh D.D. alla vera religione. Salvare i milioni d'anime della Cina. Chissà come lo spiegano al cinesino pagano. Preferiscono non ci adoppio. Celestiali. Eresia smaccata per loro. Buddha è il loro dio disteso su un fianco nel museo. Se la piglia con calma, con la mano appoggiata sotto la guancia. Bastoncini aromatici accesi. Non come Lecce Homo. Corona di spine e croce. Ottima idea, San Patrizio il Trifoglio. Bastoncelli da tavola. Conmee. Martin Cunningham lo conosce. Ha un'aria distinta. Peccato che non mi sono lavorato lui per far entrare Molly nel coro invece di quel padre Farley che sembrava uno sciocco, ma non lo era. Glielo insegnano. O non mi andrà mica in giro con gli occhiali blu colando sudore a battezzare i negri, spero. Gli occhiali fanno colpo su di loro, col luccichio. Bello vederli seduti in cerchio, quei labbroni incantati ad ascoltare. Natura morta. Se le lappano come latte, immagino. Il freddo odore di pietra consacrata lo richiamò. Salì i gradini consunti, spinse la porta ed entrò piano dal retro. Qualcosa in corso, qualche funzione collettiva. Peccato, così poca gente. Bel posticino tranquillo per starci accanto a una ragazza. Chi è il mio prossimo? Insardellati là per ore al suono di musica lenta. Quella donna alla messa di mezzanotte. Settimo cielo. Donne in ginocchio nei banchi con scapolari cremisi intorno al collo, testa in giù. Un gruppo inginocchiato lungo la balaustra dell'altare. Il prete passava davanti a loro, mormorando, tenendo il coso in mano. Si fermava davanti a ognuna, tirava fuori un'ostia, ne scuoteva una goccia o due, le tengono nell'acqua, e gliela metteva per benino in bocca. Cappello e testa sprofondavano. Poi la successiva, una vecchietta. Il prete si curvò per mettergliela in bocca, seguitando a borbottare, latino. La successiva. Chiudi gli occhi e apri la bocca. Cosa? Corpus, corpo, cadavere. Buona idea in latino. Per prima cosa l'imbambola. Ospizio per moribondi. Non sembra che la mastichino, solo la ingoiano. Idea stramba, mangiare pezzetti di cadavere. Per questo attecchisce fra i cannibali. Stette da parte a guardare le loro maschere cieche passare lì per la navata, a una, in cerca del loro posto. Si avvicinò a un banco e si sedette sull'orlo, tenendo sulle ginocchia il cappello e il giornale. Queste pentole che ci tocca portare in testa. Dovremmo farci modellare i cappelli sulla testa. Erano intorno a lui, qua e là, con le teste ancora curve nei loro scapolari cremisi, aspettando che gli si sciogliesse nello stomaco. Qualcosa del genere dei Mazaf. È quella specie di pane. Pane azimo. Guardale. Ora scommetto che le fa sentire felici. Lecca lecca. Proprio. Sì, lo chiamano pane degli angeli. C'è dietro una grande trovata. Il sentimento che il regno di Dio è dentro di voi. Prime comunioni. Abracadabra, un soldino al pezzo. Poi si sentono tutti come una grande famiglia. Lo stesso a teatro. Tutti nella stessa barca. Sì, certo, senza dubbio. Non così soli. Nella nostra confraternita. Poi uscirne un po' inuzzoliti. Dare la stura. Tutto sta nel crederci sul serio. La cura di Lourdes, acqua dell'oblio, e l'apparizione di Nock, statue che sanguinano. Vecchio addormentato vicino a quel confessionale. Perciò si sentiva russare. Fede cieca, sicuri in braccio al regno tuo. Addormenta ogni dolore. Svegliarsi l'anno prossimo a quest'ora. Vide il prete riporre il calice, bene in fondo, e inginocchiarsi un istante davanti, mostrando una gran suola di scarpa grigia di sotto quell'affare ricamato che aveva addosso. E se perdesse la spilla delle sue? Non saprebbe come fare. Cerchio di calvizie dietro, lettere sulla schiena. Inri? No, IHS. Molly mi disse una volta che glielo chiesi. Io ho sbagliato, cioè no, io ho sofferto. E quell'altra, il nostro re inchiodato. Vediamoci una domenica dopo il rosario. Non mi dir di no. Compare con il velo e la borsa nera. Crepuscolo. E la luce dietro a lei. Potrebbe anche essere qui con il nastro al collo e fare il resto lo stesso alla chetichella. Il loro carattere. Quell'imputato che depose contro gli altri invincibili era solito farla, Carrie si chiamava, la comunione tutti i giorni, proprio in questa chiesa. Peter Carey, sì. No, pensavo a Peter Clever. Dennis Carey, figuratevi un po', moglie e 6 bambini a casa. E progettava quell'assassinio tutto il tempo. Quei baciapile. È proprio il nome che si meritano. Hanno sempre qualcosa di sfuggente. E non sono neanche onesti uomini d'affari. No, lei non è qui. Il fiore, no, no. A proposito, ho strappato quella busta. Sì, sotto il ponte. Il prete sciacquava il calice, poi gettò via di scatto la feccia. Vino. Lo fa più aristocratico che se, per esempio, bevesse quel che la gente beve di solito. Birra di Guinness, o qualche bibita analcolica, o la birretta amara irlandese di Whitley, o la gazzosa di Cantrell e Cochrane, aromatica. Non ne dà loro neanche un po'. Vino di rappresentanza, solo l'altro. Magra consolazione. Pio inganno, ma giustissimo. Se no ci verrebbe un vecchio ubriacone dopo l'altro per sbaffare un goccetto. Stramba tutta l'atmosfera del giustissimo, perfettamente giusto. Sì. Mr. Bloom si voltò a guardare verso il coro. Non ci sarà musica. Peccato. Chissà chi c'è qui all'organo. Il vecchio Glynn, lui sì che sapeva far cantare quello strumento. Il vibrato. 50 sterline all'anno si diceva che prendesse in Gardiner Street. Molly era in forma con la voce quel giorno, lo Stabat Mater di Rossini. Prima la predica di padre Bernard Vaughan. Cristo o Pilato? Cristo, ma non fateci star qui tutta la notte per dircelo. Musica volevano. Lo stropiccio dei piedi cessò. Si sarebbe sentito cadere uno spillo. Le dissi di mandar la voce verso quell'angolo. Potevo sentire la vibrazione nell'aria, l'acuto, la gente con gli occhi in su. Quis est Homo, cose splendide in quella vecchia musica sacra. Mercadante, le 7 ultime parole. La dodicesima messa di Mozart, il Gloria. Quei vecchi papi si appassionavano alla musica, all'arte, alle statue e ai quadri d'ogni specie. Palestrina, per esempio, anche lui. Se la son passata bene finché è durata. E gli faceva bene anche salmodiare in chiesa, ore canoniche, poi a distillar liquori, benedictine, chartreuse verde. Però avere degli eunuchi nel loro coro era un po' grossa. Che tipo di voce è? Doveva essere curioso sentirla dopo i loro bassi potenti, connoisseur. Suppongo che non sentano più nulla dopo. Una specie di tranquillo. Niente preoccupazioni. E ingrassano, vero? Ghiottoni, alti, gambe lunghe. Chissà, eunuco. Un mezzo di uscirne fuori. Vide il prete chinarsi in avanti e baciar l'altare e poi far dietro fronte e benedire tutti i fedeli. Tutti si fecero il segno della croce e si alzarono. Mister Bloom si guardò intorno e poi si alzò, guardando al di sopra dei cappelli alzati. Ci si alza al Vangelo, naturalmente. Poi si rimisero tutti in ginocchio e lui si sedette di nuovo tranquillamente sul banco. Il prete scese dall'altare, tenendo il coso a distanza da sé, e lui e il chierico si risposero tra loro in latino. Poi il prete si inginocchiò e cominciò a leggere da una carta gloria. «Oh Dio, nostro rifugio e nostra forza!» Mister Bloom sporse la testa avanti per sentire le parole. Inglese. Buttagli un osso. Mi ricordo un po'. Da quanto non vai a messa? Gloriosa Vergine Immacolata. Giuseppe, suo sposo. Pietro e Paolo. Più interessante se si capisse di che si tratta. Meravigliosa organizzazione, certo. Marcia come un orologio. Confessione. Tutti vogliono. Poi vi dirò tutto. Penitenze. Puniscimi, per favore. Grande arma in mano a loro, più che il medico o l'avvocato. La donna muore dalla voglia di. E io. Sh. E voi avete. Cia. E perché? Lei sbircia la fede nuziale per trovare una scusa. I muri della galleria degli echi hanno orecchi. Il marito apprende con sorpresa. Il piccolo scherzo di Domine Dio. Poi lei esce. Pentimento a fior di pelle. Graziosa vergogna, prega un altare, Ave Maria e Santa Maria, fiori, incenso, candele che si struggono, nasconde i suoi rossori, l'esercito della salvezza, imitazione smaccata, prostituta rigenerata parlerà al raduno. Come ho trovato il Signore! Devono essere gente con la testa sulle spalle, quei signori di Roma. Dirigono tutto lo spettacolo e non rastrellano anche i quattrini. E poi lasciti al PP a sua assoluta discrezione, vita natural durante, messe per il riposo della mia anima da celebrarsi pubblicamente a porte aperte, monasteri e conventi. Quel prete alla sbarra dei testimoni nel processo Fermanagh, non c'è modo di fargli abbassare la cresta. Aveva una risposta pronta per tutto: libertà ed esaltazione di nostra Santa Madre Chiesa, i dottori della Chiesa. Han fatto la carta topografica di tutta la teologia. Il prete pregava. Beato Michele, arcangelo, difendici nell'ora del periglio. Sii nostra salvaguardia contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio lo raffreni, lo preghiamo umilmente. E tu, principe del celeste esercito, col potere di Dio, ricaccia Satana nell'inferno. E con lui quegli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la rovina delle anime. Il prete e il chierico si alzarono e se ne andarono. Tutto finito. Le donne rimanevano. Ringraziamento. Meglio tagliare la corda. Fratello Ronza, forse va in giro col piattino. Date il vostro contributo al precetto pasquale. Si alzò. Olà. Quei due bottoni del panciotto sono stati aperti tutto il tempo. Alle donne piace. Non ve lo dicono mai, ma noi. Scusi, signorina, c'è una. Solo una piuma. Oppure la gonna dietro, l'apertura slacciata. Rivelazioni fugaci di luna. Si seccano se non si. Perché non me l'hai detto prima? Eppure piaci di più in disordine. Fortuna che non era più a sud. Scese, abbottonandosi discretamente per la navata, e uscì nella luce dalla porta principale. Si fermò un momento senza vedere presso la fredda acqua sentiera di marmo nero, mentre davanti e dietro a lui due fedeli tuffavano mani furtive nella bassa marea dell'acqua santa. Tram, un furgone della tintoria Prescott, una vedova in gramaglie. Lo noto perché anch'io sono in lutto. Si coprì. Che ora abbiamo fatto? Un quarto. C'è tempo ancora. Meglio far fare quella lozione. Dov'è? Ah, sì. L'ultima volta, Sweeney, in Lincoln Place. I farmacisti si trasferiscono di rado. Quei loro vasi verde e oro sono troppo pesanti da rimuovere. La farmacia Hamilton Long, fondata nell'anno del diluvio universale. Vicino c'è il cimitero degli Ugonotti. Visitarlo una volta. Si incamminò verso sud, lungo Westland Row. Ma la ricetta è negli altri pantaloni. Oh, mi sono anche dimenticato la chiave della porta. Seccatura questo funerale. Beh, poveretto, non è colpa sua. Quand'è che l'ho fatta fare l'ultima volta? Aspetta, cambiai una sovrana, mi ricordo. Il primo del mese doveva essere, o il 2, insomma. Può cercarlo sul registro delle ricette. Il farmacista voltò una pagina dopo l'altra. Odore di sabbia e di seccume, sembra che abbia. Cranio in carta pecorito. E vecchio. Ricerca della pietra filosofale. Gli alchimisti. Le droghe ti invecchiano dopo averti eccitato. Poi letargo. Perché? Reazione. Una vita intera in una notte. A poco ti cambia il carattere. Vivere tutto il giorno tra erbe, unguenti, disinfettanti, tutti i suoi vasi d'alabastro, mortaio e pestello. Ac, dist, fol, laur, te, virit. L'odore quasi ti guarisce, come il campanello del dentista, il dottor Verga. Pensi un po' a curare se stesso, elettuario o emulsione. Il primo che colse un'erba per curarsi aveva un bel fegato. Semplici, bisogna stare attenti. Ce n'è abbastanza qui da cloroformizzarti. Prova, fa diventare rossa una cartina di tornasole azzurra. Cloroformio, dose eccessiva di laudano, sonniferi, filtri amorosi. Sciroppo di papavero, cattivo calmante per la tosse. Ostruisce i pori o il catarro. Veleni, i soliti rimedi. Rimedio dove meno te l'aspetti. Furba la natura. Circa 15 giorni fa, signore? Sì, disse Mr. Bloom. Aspettava al banco, inalando l'aroma acuto delle droghe, l'odore secco e polveroso delle spugne e delle luffe. Un monte di tempo a raccontare i vostri dolori e malanni. Olio di mandorla dolce e tintura di benzoino. Disse Mr. Bloom, e poi acqua di fiori d'arancio. Certamente le rendeva la pelle delicata e bianca come la cera. E cera bianca anche, disse. Mette in risalto il nero dei suoi occhi. Mi guardava, il lenzuolo tirato su fino agli occhi, spagnola, annusandosi mentre mi mettevo i gemelli ai polsini. Quelle ricette casalinghe spesso sono le migliori. Fragole per i denti, ortiche e acqua piovana. Avena, dicono, stemperata nel latte. Nutre la pelle. Uno dei figli della vecchia regina, il duca d'Albany, vero? Aveva una pelle sola. Leopold, sì? Tre ne abbiamo noi. Porri, verruche e pedicelli, per peggiorare le cose. Ma anche tu vuoi un profumo. Che profumo usa tu a Pau de Spagna? Quell'acqua di fior d'arancio è così fresca. Buon odore hanno questi saponi. Sapone al latte genuino. Ora di prendere un bagno qui all'angolo. Hammam, turco. Massaggio. Il sudicio si insalsiccia nell'ombelico. Sarebbe meglio se lo facesse una ragazza. Anch'io credo che io. Sì, io. Farla nel bagno. Ma che voglia strana. Acqua all'acqua. Unire l'utile al dilettevole. Peccato non c'è tempo per un massaggio. Ti senti fresco per tutto il giorno. Il funerale sarà piuttosto deprimente. Sì, signore, disse il farmacista. Faceva 2,9. Ha portato una bottiglia? No, disse Mr. Bloom. La prepari per piacere. Passerò più tardi e prendo una di queste saponette. Quanto vengono? 4 pence, signore. Mr. Bloom ne portò una alle narici. Dolce cera al limone. Prendo questo, disse. In tutto allora 3 scellini e 1 penny. Sì, signore, disse il farmacista. Può pagare tutto insieme, signore, quando torna? Bene, disse Mr. Bloom. Uscì dalla bottega, il giornale a bacchetta sotto l'ascella, il sapone dalla fresca fascetta nella sinistra. Alla sua ascella la voce e la mano sinistra di Bantam Lyons dissero: «Olà, Bloom, che c'è di bello? È quello d'oggi? Faccia vedere un minuto!» Si è tagliato un'altra volta i baffi per Giove, labbro superiore lungo e freddo, per sembrare giovane. Ha l'aria melensa, più giovane di me. Le gialle dita dalle unghie nere di Bantam Lyons srotolarono la bacchetta. Ha bisogno di una lavatina, anche. Levare la prima crosta. «Buongiorno, avete usato il sapone Pierce?» Forfora sulle spalle. «Deve lubrificare la cotenna.» «Voglio vedere un po' di quel cavallo francese che corre oggi», disse Bantam Lyons. «Dov'è quel fottuto?» Spiegazzò le pagine piegate sporgendo il mento dal colletto alto. «Impetigine. Colletto stretto, perderai i capelli. Meglio lasciargli il giornale e piantarlo.» «Lo tenga pure», disse Mr. Bloom. «Ascot, la coppa d'oro.» «Aspetti», borbottò Bantam Lyons. «Momento, maximo un secondo.» «Stavo proprio per buttarlo via», disse Mr. Bloom. Bantam Lyons alzò un tratto gli occhi e ghignò debolmente. «Cosa?» disse la sua voce acuta. «Dico che lo può tenere», rispose Mr. Bloom. «Stavo per buttarlo via in quel momento.» Bantam Lyons esitò un istante, ghignando, poi rimise il giornale aperto tra le braccia di Bloom. «Lo rischio», disse. «Ecco, grazie!» Corse via verso l'angolo di Conway. «Va con Dio!» Mr. Bloom ripiegò i fogli in preciso rettangolo e ci mise in mezzo il sapone, sorridendo. Labbra sciocche di quel tipo. Giocare alle corse. È diventata una mania da un po' di tempo in qua. Fattorini che rubano per puntare 6 pence. Lotteria per un grasso tacchino tenero. Il vostro pranzo di Natale per 3 pence. Jack Fleming commette peculato per giocare e poi se la batte in America. Ora tiene un albergo. Non tornano mai indietro. Pignatte d'Egitto. S'avviò allegramente verso la moschea dei bagni. Ricorda una moschea. Mattoni rossi, minareti. Guarda, oggi gare universitarie. Addocchiò il manifesto a ferro di cavallo sopra il cancello del parco del college. Ciclista piegato in due come un merluzzo in pentola. Pessima pubblicità. Se invece l'avessero fatto tondo, come una ruota. Poi raggi, sport, sport, sport. E come mozzo in grande, college. Qualcosa da attirare l'attenzione. Ecco Hornblower davanti alla guardiola del portiere. Tenerselo buono. Potrei fare un giretto lì dentro. Come va, Mr. Hornblower? Come va, signore? Tempo celestiale, davvero. Se la vita fosse sempre così. Tempo da cricket. Sedere intorno sotto gli ombrelloni, un gioco dopo l'altro. Eliminato! Non sanno giocare qui. 0 per 6 porte. Eppure Capitan Caller ruppe un vetro a una finestra del circolo di Kildare Street con un colpo destinato a segnare un punto. La fiera di Donnybrook è più adatta. Quanti crani spaccavamo quando uscì McCarthy nostro? Ondata di caldo. Non durerà. Tutto passa. La corrente della vita. Quel che nella corrente della vita noi rincorriamo è a noi più caro di ogni altra cosa. E ora un bel bagno, mastello d'acqua pulita, fresco smalto, gentile, tepida corrente. Ecco il mio corpo. Vedeva già il suo pallido corpo lungo disteso in essa, nudo, in un grembo di tepore, oleato di liquescente sapone aromatico, dolcemente lambito dall'acqua. Vedeva il suo torso e le membra semisommerse e sostenute dall'acqua, lievemente galleggianti, giallo limone, l'ombelico, bocciolo di carne, e vedeva gli scuri riccioli arruffati del pube fluttuanti, fluttuante chioma della corrente attorno al floscio padre di migliaia, languido fiore flottante.